percorso, è arrivato a metà strada. Capisti subito che non era una passeggiata. Mostrasse il mondo le palle e il tuo animo ribelle, e così facendo ne combinasti delle belle. Lasciasti casa tua in cerca di lavoro, qua lo trovasti assieme ad un tesoro che da quel giorno non ti ha mai abbandonata. Quest'amore sembra dipinto quasi da una fata, invece no, è stata scritta ad una mano questa storia che sicuramente andrà lontano. Così hai formato una gran bella squadra. Siamo soli in quattro ma riempiamo questa casa. Volevi la femminuccia ma già hai pensato tardi. Così mi son fatto crescere i capelli come Barbie. Ci ho provato ma con scarsi risultati. Non c'è stato verso, alla fine li ho tagliati. Ribelle con la testa da ragazza, forza da ventenne, idee proprio da pazza. Il pallino per il viaggio, la voglia di scappare. Per fortuna papà saggio ti riesce a frenare. Se no a quest'ora saremmo in bancarotta. Torno da scuola, non chiudere la porta. Ora riesci per prendere. Ci sei, va a lavorare. Se ora son bello è soltanto grazie a te, perché c'è da dire che papà non è sto granché. Naturalmente scherzo, è proprio figurino, anzi un gran figo come mio cugino Nino. Parlando seriamente ti devo ringraziare, e per farlo ti porto al circolo polare. Mi piace quando ridi per i miei dispetti, per le mie prese in giro sui tuoi difetti. Ci mostri il tuo affetto in mille vari modi, ma quando tu urli si sente fino a Lodi. Ma questo non importa, perché io ti voglio bene, non solo perché ho il tuo sangue nelle vene. Sono cresciuto coi tuoi insegnamenti, ma te mi aiuti ancora anche se sono giunte i venti. Ora prendi bene questo punto di passaggio, devi ricordare che sei solo a metà viaggio. Mi chiedo le mani, sei una folle ribelle con la testa da ragazza, forza da ventenne, idee proprio da pazza, il taggino per il viaggio, la voglia di scappare, per fortuna papà saggio ti riesce a frenare. Se no a quest'ora saremmo in bancarotta. Torno da scuola, non chiudere la porta. Ora riesci, dai a prendere il pane, e visto che ci sei, vai a lavorare. Grazie!